Bene, ciao a tutti e a tutti. Iniziamo questo incontro per noi importante, molto importante. Siamo felici di presentare questo nuovo libro della collana Working Class di Edizioni Allegre, la collana diretta da Alberto Brunetti. E ci è capitato negli anni passati di presentare altri libri di questa collana, una collana che nel nostro paese è unica, nel senso che si occupa di narrazione operaia, di lotte operaie, e quindi ci sta benissimo che dentro, all'interno di questa collana sia dato spazio a un libro in sorgiamo del collettivo di fabbrica della GKN, perché quello che la GKN, la sua lotta, la sua capacità di coinvolgere attorno alla vicenda dei 500 lavoratori e lavoratrici di questa fabbrica toscana, tante realtà nel nostro paese, lavoratori, ma non solo, lavoratori di altre categorie, quindi non solo metalmeccanici, studenti, tanti giovani, le due manifestazioni che i compagni della GKN hanno messo in piedi, hanno rappresentato uno spaccato dei movimenti sociali nel nostro paese che non aveva avuto in passato, in un passato recente, la possibilità di trovare dei modi in cui esprimersi, soprattutto in maniera unitaria. Questo è un altro aspetto importante. Tante realtà diverse si sono riconosciute in questa lotta perché questa lotta ha rappresentato sicuramente qualcosa di nuovo. In primo luogo, rispetto alla questione delle fabbriche che vengono colpite da processi di ristrutturazione e da licenziamenti, la modalità con cui i lavoratori della GKN si sono rapportati a quella decisione presa da un fondo monetario che gestiva la fabbrica e comunicata con la modalità della mail dalla sera alla mattina. Il modo con cui i compagni della GKN hanno risposto è sicuramente qualcosa di diverso rispetto alle dinamiche che solitamente si verificano quando una fabbrica viene chiusa e i lavoratori vengono licenziati. Nel senso che molto spesso, in seguito a queste scelte, ci sono gli ammortizzatori sociali che tutelano in minima parte il reddito dei lavoratori e delle lavoratrici, ma quello che si determina è la fine di un'esperienza collettiva perché quasi sempre a rimanere poi nella fabbrica vecchia sono almeno non più della metà dei lavoratori in condizioni peggiori rispetto a quelle precedenti e quindi viene scomposto quello che comunque è un nucleo anche sociale che una realtà come una fabbrica può rappresentare. Ecco, la GKN tutto questo non è avvenuto e quindi questa novità è stata narrata direttamente dai compagni della GKN e oggi hanno scelto anche di raccontare la loro lotta in questo libro che è un diario ragionato, scritto anche bene, cioè che anche nel senso che Alberto Brunetti diceva che si sono messi insieme documenti, volantini, ma anche la scrittura di questi testi è qualcosa di nuovo, importante anche nella comunicazione operaia. Quindi secondo me c'è anche questo elemento che è un elemento importante. Io darei la parola a Dario per un suo primo intervento, poi dopo faremo domande su quello che appunto è avvenuto in questi 2 anni quasi ormai di lotta. E poi anche voi, insomma, se avete domande, è importante che ci sia questo tipo di dialogo. Dario, grazie intanto di essere qua, di essere venuto. Grazie a voi. Grazie a voi per l'invito. Scusate se stasera come collettivo di fabbrica sono soltanto io, ma avevamo altre presentazioni in contemporanea, ci siamo dovuti un po' dividere. Vi ringraziamo per questo invito, anche perché per noi presentare questo libro è quasi terapeutico, ci rilassa dopo 10 mesi e più di lotta che non sono conclusi. E da quel 9 luglio ogni giorno ci chiediamo quanto riusciremo ad andare avanti e ce lo chiediamo ancora oggi, perché la fabbrica è ancora in assemblea permanente, un pezzo della fabbrica è ancora in occupazione, noi non siamo ancora tornati al lavoro, quindi la lotta va avanti. Ogni giorno ci troviamo di fronte a manovre, a rischi di cedimenti, e ogni volta nuovi. Però il libro parla invece di qualcosa di diverso. Il libro ci permette di iniziare a ragionare su quello che già è stato, perché il libro fondamentalmente è la raccolta degli avvenimenti, dei post, dei discorsi, dei comunicati dal 9 luglio fino al 26 marzo, fino alla manifestazione di Firenze. È uscito il giorno stesso della manifestazione. Il libro nasce quasi per caso. Siamo un sabato mattina a un Insorgiamo Tour, eravamo in Abruzzo, non ricordo nemmeno dove, e mentre eravamo in macchina ci viene in mente che ci sono troppi post, troppe cose che abbiamo scritto che ormai non ci ricordiamo nemmeno noi dall'intensità che hanno avuto questi 10 mesi. Alziamo la cornetta e diciamo ad Alberto, mancavano tipo 14 giorni, una roba del genere, al 26 marzo, che bisogna avere pronto un libro per il 26 marzo. Alberto chiama Giulio dell'edizione Allegre e lunedì si mettono a lavorare. Lì per lì il dubbio è se avevamo abbastanza materiale per fare 90.000 battute. E quando mette le mani al materiale si spulcia tutto il profilo Facebook e altro, si mette le mani tra i capelli perché ne aveva 170.000 battute e non sapeva come fare a tagliare. Racconto questo solo per dire che questa lotta è stata in piedi grazie a una marea di improvvisazioni di questo tipo, talmente tante che non riesco nemmeno più a ricordarle. C'è un rapporto dialettico in questa lotta tra ciò che prepari e ciò che sei costretto a improvvisare, e spesso ciò che hai preparato non ti rendi nemmeno conto a che cosa serviva e lo scopri dopo. Perché noi quel 9 luglio ci prendono alla sprovvista. La storia penso più o meno ormai la sappiate, ci dicono che dovevamo stare a casa per un permesso collettivo e in realtà alle 10:30 di mattina ci dicono che la fabbrica è chiusa per sempre, che non saremmo rientrati, e quindi ci prendono alla sprovvista. C'è questo filmato delle telecamere interne del direttore che alle 10:30 sostituisce i portinai con dei bodyguard armati, chiude i cancelli, alle 10:30, alle 10:33 ci parte la mail. Ci hanno preso la sprovvista, ma allo stesso tempo erano anni che ci preparavamo a questo avvenimento. Però per quanto ti puoi preparare, non sei mai veramente pronto. E infatti quella mattina ci hanno preso la sprovvista. E ci eravamo preparati in anni di discussioni su cosa avremmo fatto il giorno che ci avessero chiuso la fabbrica. Però alla fine, se non fosse stata per la pasta, per la determinazione, per la natura umana delle colleghe e dei colleghi, sono trovati di fronte a quel cancello che hanno deciso di sfondarlo, tutta quella preparazione sarebbe stata inutile. Quindi c'è sempre un momento in cui devi improvvisare e in cui scopri se veramente ti sei preparato. Però allo stesso tempo c'era un altro livello di preparazione che noi non avevamo calcolato e senza il quale noi non ce l'avremmo fatta. Perché cosa succede? Succede che dal 10, dall'11, dal 12 luglio iniziano ad arrivare la protezione civile, i circoli ARCI, le compagne e compagni dei centri sociali, delle reti ambientaliste, del movimento studentesco, realtà a volte anche periferiche che avevano retto, tra l'altro durante la pandemia, perché noi siamo i primi licenziati dello sblocco dei licenziamenti pandemici, e che forse non si ricordavano nemmeno perché stavano resistendo. Ecco, noi senza quella loro resistenza, se avessimo dovuto improvvisare l'edizione Allegre, se avessimo dovuto improvvisare i circoli che ci sono venuti in aiuto, non ce l'avremmo fatta. La verità è che quello che si è scaricato su di noi quel 9 luglio è stata una lenta e lunga preparazione, una lenta e lunga resistenza sotterranea che ci ha permesso di resistere, che è venuta perché ha capito cosa si stava giocando alla GKN ed è venuta anche perché noi l'abbiamo chiamata. perché già dal 10 luglio il nostro motto, lo sapete, non è la GKN non si tocca, ma è insorgiamo. Partiamo da un'idea di sconfitta, perché mettiamo in conto, perché non siamo degli illusi, che di fronte a una multinazionale, a un fondo finanziario, dati i rapporti di forza in questo momento nel mondo, nel paese, tu parti già sconfitto, e visto che la sconfitta è la cosa più probabile, allora giochiamoci tutto, allora insorgiamo, allora diciamo la verità, che per salvare una fabbrica sei costretto fondamentalmente a cambiare l'intero mondo che l'ha chiusa, l'intero mondo che l'ha chiusa è fatta di leggi, di finanziarizzazione dell'economia, di rapporti di forza, di burocratismo sindacale, di rassegnazione, e che ci sarebbe bisogno di ribaltare tutto questo e nel nostro caso anche di farlo in 75 giorni, perché la prima procedura di licenziamento aveva 75 giorni come tempo e il tempo tra l'altro era luglio e agosto. E quindi dichiariamo anche che il tipo di resistenza di cui avremmo avuto bisogno sarebbe stata una resistenza di tipo partigiano. E per quello scegliamo un motto partigiano, perché si trattava di mettere fine a un periodo buio. E lo diciamo come collettivo di fabbrica, e come collettivo di fabbrica che si compone si componeva prima della lotta di 50, 60, 70 lavoratori attivi, poi dopo il 9 luglio si identifica con l'intera fabbrica, non avevamo di certo la forza da soli di ribaltare i rapporti di forza. E quindi il nostro insorgiamo è un invito a cui ognuno di noi poteva o non poteva rispondere, e in tante e tanti invece hanno risposto. Ecco, noi quell'altro mondo possibile l'abbiamo visto, perché il livello di umanità che ci è arrivata dentro quella fabbrica, che ha seguito il nostro sfondamento dei cancelli e che come noi quel giorno ha sfondato quei cancelli non sa quante volte con assemblee, riunioni, iniziative, è qualcosa di indescrivibile. Noi cerchiamo ora di porre l'attenzione di tutti e di tutti noi sul fatto che questo altro mondo a noi si è palesato in questo momento storico, in questo paese, e che temiamo tanto che non abbia la forza di continuare a insorgere e di continuare, come è successo con GKN, a cambiare i rapporti di forza. Per provare a descrivervi le fasi della lotta e quali sono state un po' alcune dinamiche che si sono determinate, ci sono alcuni dualismi che si sono toccati con mano in questa lotta. Il primo l'ho già detto, quello tra improvvisazione e preparazione, perché noi ci eravamo preparati, potrei parlare a lungo dei 10 anni di preparazione di un altro modello sindacale che abbiamo avuto in GKN, dei dibattiti, delle discussioni. Il collettivo di fabbrica viene fondato solo nel 2017 e i delegati di raccordo solo nel 2018, quindi poco tempo prima della chiusura, e vengono fondati proprio perché arriva il fondo finanziario nel 2018 e quindi c'è una ricaduta, un bisogno di dare un concretezza a 10 anni di dibattito che avevamo avuto su come creare un modello sindacale diverso, come potevamo resistere, mai resistere però considerandoci un'oasi a sé stante, ma sempre resistere sperando di essere un elemento, un germoglio di cambiamento generale, perché non abbiamo mai teorizzato la singola fabbrica come oasi felice, ne siamo ben consapevoli che questo non può esistere. Secondo elemento di dialettica che si è creato è rispetto al tempo, come fattore fondamentale della lotta, perché quel 9 luglio improvvisamente il tempo accelera, improvvisamente noi abbiamo 75 giorni, il 22 settembre ci arrivano le lettere di licenziamento definitive e quindi bisogna correre. Correre mentre tutto il resto del paese rallenta, luglio, agosto, periodo di ferie, e bisogna correre e bisogna assolutamente trasmettere a noi e al territorio che qualcosa di diverso sta accadendo, che non siamo la solita vertenza cotta e decotta industriale, che ci sono le possibilità di vincere, che qualcosa sta accadendo. E per cui le organizzazioni sindacali ci dichiarano uno sciopero il 19 luglio, provinciale, molto partecipato, di tutto il sindacalismo, tranne l'UGL, tutto il sindacalismo, confederale, extraconfederale, che quel giorno entra in sciopero, però poi spariscono dai radar. Come se il punto fosse fare uno sciopero per lavarsi la coscienza o per dire l'abbiamo fatto. Cosa si può fare di più? E invece noi dobbiamo chiamare una mobilitazione nazionale subito, e lo facciamo il 24 luglio. Con un filmato, e la forza di quel filmato non è quello che diciamo, ma che lo facciamo dall'interno della fabbrica, perché le parole hanno una credibilità se i corpi gli danno credibilità a quelle parole. Una manifestazione il 24 luglio mattina, che non abbiamo nient'altro strumento per chiamarla di un filmato, e rispondono in quasi 8.000. A noi ci è rimasto impresso un ragazzo che da Lecce prende la macchina da solo e arriva da Lecce, e ci chiede: ma voi quando potete venire a Lecce? Guarda, ora no, però ti promettiamo che ci verremo. Infatti l'ultimo Insorgiamo Tour riparte da Lecce, riparte dalla Puglia a febbraio, perché avevamo una parola data rispetto a quelle 8.000 persone. L'altro elemento fondamentale è che solidarietà dai, solidarietà ricevi, solidarietà restituisci, mai niente per scontato. Non abbiamo mai pensato che, siccome noi eravamo metalmeccanici, più visibili degli altri, allora dovevamo avere qualcosa di più degli altri. Anzi, ci siamo scusati di questa visibilità, tant'è che il 24 luglio è il momento in cui noi diciamo: scusate, ma perché ci compatite tanto? Cioè, voi come state? È quello il momento in cui lanciamo questa parola d'ordine, perché ci rendevamo conto che la visibilità che veniva data a GKN era quasi imbarazzante. C'erano persone molto più precarie di noi che venivano a fare mobilitazioni per il nostro posto di lavoro. C'erano 1 milione di posti di lavoro persi durante la pandemia, nel silenzio, e ora tutta l'Italia, e noi chiedevamo a tutta Italia di mobilitarsi per 400 posti di lavoro, 500, nella piana industriale fiorentina. Perché mai? Perché mai le precarie, i precari, chi aveva perso il posto di lavoro, le finte partite IVA, avrebbero dovuto mobilitarsi per noi, se noi non ci mettevamo a disposizione come elemento di riscatto anche per loro? Il tempo corre, e quindi dobbiamo convocare anche una mobilitazione d'agosto, lo facciamo l'11 agosto, il giorno della liberazione di Firenze, e già il 19 luglio ci eravamo richiamati all'insurrezione fiorentina, che avviene suonando la Martinella, che è la campana di Palazzo Vecchio a Firenze, che era suonata quando c'era da liberarsi dai nazifascisti per dire che la città insorgeva. E poi convochiamo la mobilitazione il 18 settembre, 5 giorni prima dei licenziamenti. Licenziamenti che poi non arrivano, perché vinciamo l'articolo 28 e lì subentra un altro tipo di dialettica e di dualismo dentro la lotta: legale o mobilitazione? Perché immediatamente tutti si attaccano a questo articolo 28 per dire: ah, vedete, non c'era bisogno di scendere in piazza, ci sono le leggi, l'articolo 28. Cosa non falsa di più, falsissima. Innanzitutto perché quando diciamo articolo 28, forse le persone non lo sanno, si intende articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori, che è una legge del 1970 ottenuta con le lotte. Poi noi l'articolo 28 lo vinciamo mica appellandoci a una legge, appellandoci ai contratti nazionali e a tutti gli accordi che noi avevamo strappato negli anni precedenti scioperando contro la multinazionale, cioè mettendoci nostri soldi nello scioperare, e che la multinazionale aveva violato, e che erano accordi che noi avevamo cucito apposta sul fondo finanziario perché loro ci dovessero dare diritto di preavviso. E siccome noi sapevamo che si preparavano un colpo di mano, li avevamo stretto attorno una valanga di accordi sul diritto al preavviso ottenuti con gli scioperi, l'ultimo nel luglio del 2020, è vero che siamo un po' retro, luglio del 2020, subito dopo la pandemia, 8 giorni di sciopero, e loro alla fine di questi 8 giorni firmano un accordo in cui dicono che non avrebbero licenziato, e comunque se licenziavano ce lo dicevano prima, e quello è l'elemento su cui noi vinciamo fondamentalmente l'articolo 28. Uno sciopero durissimo, dove la gente ci guardava come marziani, perché eravamo appena rientrati dal primo lockdown, e quando il 3 luglio siamo tutti in fabbrica, a pieno regime, ci mettiamo a scioperare. Cioè, questi rientrano dopo il lockdown e scioperano durante la pandemia. Quindi in realtà l'articolo 28 era un portato delle lotte. Sole 24 ore commenta di quell'articolo 28: bene che l'hanno vinto, perché si vedevano scene per le vie di Firenze che non si vedevano dal 68-77, e quindi bene che abbiano vinto l'articolo 28. Letta dice: vedete che ci sono le leggi. E noi lì non ci tiriamo indietro nemmeno rispetto a questa dialettica, perché diciamo: no, le leggi non ci sono. Però siccome state dicendo che volete fare la legge antidelocalizzazione salva GKN, perché quello che dicevano sui giornali, la scriviamo noi la legge. E ovviamente lo scriviamo con un pezzo di competenze solidali che si erano attivate attorno a noi, i giuristi democratici e progressisti, che invitiamo a riunirsi di fronte alla fabbrica e scrivere con noi in fabbrica la legge antidelocalizzazione. Improvvisamente il governo non parla più di legge antidelocalizzazione. L'altro elemento dialettico che esiste in questa lotta è il rapporto individuo-collettivo. perché tu ti trovi in una situazione in cui puoi perdere tutto, e se ti riduce la dimensione individuale c'è sempre un meno peggio che puoi accettare, perché andare a casa licenziato con 1000 euro in tasca è meno peggio che andare a casa licenziato senza i 1000 euro in tasca. Per cui tutto sommato, se firmi un accordo di licenziamento con 1000 euro, individualmente ci hai guadagnato. Tra andare a casa a zero e andare a casa con 1000 euro. Il problema è che troppe vertenze sono finite così. Il problema è che di individuo individuo che tutto sommato si accontenta di quel meno peggio, che effettivamente dal punto di vista logico è inoppugnabile, cioè è meglio andare a casa licenziato con zero o andare a casa licenziato con 1000? Con 1000, direte voi, o con 10.000, o con 50.000. E quindi c'è il tema del buon uscita, del autodistruggere il tuo posto di lavoro, dell'autodistruggere il tuo posto di lavoro, perché a te conviene, ma a te conviene individualmente lì per lì, perché poi a furia di a te conviene, crei un mondo di precariato, di sfruttamento, che prima o poi non conviene. Non converrà a te, non converrà alla tua famiglia, non converrà a tuo figlio, non converrà alle persone che avrai attorno. E quindi qualcuno a volte deve un po' sacrificare il suo oggi per lottare per il domani, anche quando questo sembra, come dire, illogico. E quindi c'è il tema di quanto resistiamo. Ma anche lì non lo affrontiamo in maniera astratta, perché non diciamo ai lavoratori GKN dovete fare gli eroi per la collettività. Noi diciamo guardate la collettività che è venuta di fronte ai nostri cancelli. Se ci sta difendendo è perché pensa che noi siamo un elemento di riscatto potenziale per loro. E lì si torna a quelli che sono venuti a quei cancelli. Senza di loro noi non avremmo resistito. Perché noi non ci appellavamo a resistere per un'astratta collettività. Noi la collettività l'abbiamo vista. Il territorio che insorgeva e ci difendeva l'abbiamo visto. E per cui abbiamo avuto possibilità di dirci tra di noi che noi non potevamo cedere, perché noi non eravamo lì a fare una lotta individuale, noi eravamo lì ad evitare l'ennesima delocalizzazione per provare a invertire decenni di sconfitte ed evitare che sul territorio rimanesse un ecomostro, l'azienda, svuotata se noi avessimo accettato la cassa integrazione per cessazione d'attività. Ed è un po' come in quei film americani dove ci sono due auto che si devono scontrare e si vede chi si toglie prima dalla strada. Si avvicinava a quella procedura di licenziamento sempre di più, sempre di più, sempre di più, e tu dovevi tenere la strada e aspettare anche lo scontro quel 22 settembre, ci fossero arrivate le lettere. Per quello convochiamo il 18 settembre le persone, per dare forza a noi di rimanere su quella strada e per dire noi rimaniamo su quella strada perché abbiamo queste 30.000 persone insieme a noi e che ci porteranno fino in fondo con lo scontro. E guarda caso, lo scontro non arriva perché vinciamo l'articolo 28. Poi si può fare tanti processi alle intenzioni e dire che l'articolo 28 è stato vinto perché la lotta era in campo. Ma non c'è bisogno di fare le dietrologie. Se voi andate a vedere tutti gli altri articoli 28 di tutte le altre aziende, Caterpillar, hanno vinto l'articolo 28, ma il giudice non ha ritirato la procedura di licenziamento. E quindi a chi cerca di contrapporre il piano legale al piano della lotta, noi rispondiamo che in realtà abbiamo vinto anche sul piano legale, e siamo stati credibili anche sul piano legislativo perché la lotta era in campo e che questi due piani non solo non si possono contrapporre, ma la lotta ti fa vincere anche sul cosiddetto piano legale e istituzionale. Dopo il ritiro della procedura di licenziamenti, improvvisamente il tempo si inverte, di colpo. Il 22-23 di settembre noi abbiamo vinto, tutti i giornali dicono che abbiamo vinto, non si sa cosa abbiamo vinto perché i licenziamenti sono stati ritirati per un vizio di procedura, ma l'azienda li può riaprire, dopo 15 giorni li può riaprire. Eppure, improvvisamente, non riusciamo più a comunicare con le persone attorno, perché ci incontrano per strada e ci dicono allora è tutto risolto. Purtroppo non ci sono scorciatoie nella vita. L'attenzione mediatica ci aveva dato un colpo favorevole e ora l'attenzione mediatica se lo riprendeva. Perché i vari Formigli, la Sette, quelli che erano venuti a darci anche facilità nel veicolare il nostro messaggio, ora ne veicolavano un altro, e quello era divergente. E anche lì, senza le reti solidali di controinformazione che abbiamo utilizzato per spiegare invece alla cittadinanza che la cosa era diversa, non saremmo andati avanti. Arrivati, altri 5 minuti poi vi lascio la parola. No, vai pure che è molto interessante. Arrivati alla manifestazione del 18 settembre, vinto l'articolo 28, ci diciamo che cosa può fare di più un collettivo di fabbrica. Ci vorrebbe uno sciopero generale per approcciare la nostra mobilitazione. E infatti lo chiediamo. Ma sappiamo anche che purtroppo in questo paese il termine sciopero generale da troppo tempo è stato svuotato di contenuto e non è più quel termine che ci fa venire il brivido alla schiena e che ci fa pensare che il paese si blocchi. Gli stessi sindacati confederali hanno la capacità di convocare gli scioperi generali senza che cambi nulla. Oggi, fra parentesi, è un sacrosanto e giusto giorno di sciopero generale contro la guerra. Stamattina eravamo in piazza, ma sappiamo benissimo che il paese non è stato bloccato. Per cui diciamo sciopero generale e generalizzato. Cioè, se lo sciopero generale non avviene in un clima di fermento del paese, non è un vero sciopero generale. E ci guardiamo attorno e ci diciamo: dov'è il fermento in questo momento nel paese? E in quei giorni c'è la pre-coppa a Milano, non mi ricordo esattamente quando, e 50.000 persone. E allora noi prendiamo, andiamo al Climat Camp a intervenire e dire: guardate che la vostra lotta è la nostra lotta, perché noi non è che stiamo lottando per il greenwashing o per tirare sulla fabbrica per continuare a inquinare o distruggere il mondo. Non difendiamo l'automotive per difendere l'automotive, non l'abbiamo scelto noi che cosa producevamo. E guardate che i licenziamenti che avvengono nell'automotive sono licenziamenti che servono a distruggere i diritti sociali, non a creare un mondo migliore dal punto di vista ecosostenibile. E infatti decidiamo di collegarci al movimento studentesco, al movimento ambientale, e quella saldatura che iniziamo a coltivare poi è sboccata nel 25-26 marzo. Nel frattempo ci deridono perché chiediamo lo sciopero generale. L'11 ottobre c'è uno sciopero generale dei sindacati di base, lo facciamo convintamente. E la CGIL ci deride perché dice: no, ma lo sciopero generale. Ancora il 30 novembre noi siamo in piazza con lo striscione dove chiediamo sciopero generale, se non ora quando. Tutte queste cose le ritrovate, credo, nel libro, o se non le ritrovate sul libro le ritrovate facilmente online. E in piazza mi ricordo che un funzionario mi dice: ma non è tempo di scioperi generali, ma cosa dici? 16 dicembre, 15 giorni dopo, convocano lo sciopero generale. Ma uno sciopero generale fatto con questo livello di convinzione non può avere nessun livello di efficacia e con questo livello di preparazione. Sono gli scioperi generali per lavarti la coscienza. Però per fortuna noi avevamo specificato che volevamo sì lo sciopero generale, ma non fatto così. Il 30 ottobre c'è la mobilitazione contro il G20 a Roma. E noi le avevamo detto che se eravamo il piccolo villaggio di Asterix e Obelix, se c'era andare a Roma, noi calavamo su Roma senza problemi. E facciamo 12 pullman con i solidali e il resto della fabbrica che partono la mattina per andare a dire che se c'è una piazza comune noi ci siamo, che noi pretendevamo che tutte le lotte che stavamo vedendo nel paese, all'Italia, a noi, dovevano trovare un modo per arrivare a una convergenza e una lotta comune come unico modo per dare un senso alla parola insorgiamo, perché noi non vediamo oggi nessun'altra via per costruire in tempi brevi rapporti di forza se non sommando lotte che sono anche militanti ma che riescono ad acquisire una forza solo se si sommano. Poi su questo magari, se volete, ci torniamo. Però intanto il tempo è rallentato, non sappiamo più cosa vuol fare la multinazionale. Non riapre la procedura di licenziamento. Il 28 novembre facciamo un'assemblea in fabbrica dove diciamo che se riaprono la procedura di licenziamento ci sarà un altro 18 settembre e un'altra manifestazione di 30.000 persone. Spariscono. Il 5 dicembre facciamo un'assemblea in azienda dove per la prima volta utilizziamo il termine nazionalizzazione. Ci siamo costruiti nel frattempo delle competenze solidali. Proponiamo il polo pubblico della mobilità sostenibile. E spieghiamo che se lo Stato volesse, GKN si potrebbe nazionalizzare, rendere pubblica sotto il nostro controllo, sotto il controllo delle competenze solidali, e potrebbe collegarsi all'industria italiana autobus per produrre semiassi e per contribuire con i famosi soldi del PNRR a una mobilità sostenibile reale nel paese. Ovviamente non ci hanno mai risposto. E guarda caso i licenziamenti non ripartono. Lì probabilmente qualcuno inizia ad aver paura. Non che noi vincessimo, ma forse di non riuscire a sconfiggerci così, con tranquillità, e che la cosa si potesse generalizzare. E quindi improvvisamente, se non puoi batterli, prova a farli vincere come dici tu. Arriva un cavaliere bianco che ci salva, un cavaliere bianco che nel 2018 era la Leopolda Correnzi, che viene dalla cosiddetta economia circolare, prende i rifiuti dei termovalorizzatori e ci fa San Pietrini, quindi diciamo viene considerato una procedura green. Io non sono un ingegnere, non vi saprei dire se è così o no, ma diciamo che la cosa a noi non ci ha mai convinto totalmente, per usare un eufemismo. E quindi la nuova narrazione è che noi abbiamo vinto, ma abbiamo vinto come dicevano loro. Non abbiamo vinto perché abbiamo ottenuto una legge, perché abbiamo costruito un polo pubblico della mobilità sostenibile, ma perché ci sono imprenditori bravi nel paese che salvano le fabbriche. Questa è la nuova narrazione, un tentativo di sovrascrivere, come si fa con un file, la nostra narrazione e così farci vincere contemporaneamente cancellando la nostra vittoria. E però questa vittoria non è tale fino in fondo. Vabbè, vi risparmio che otteniamo il 19 gennaio un accordo quadro. L'unica cosa che abbiamo firmato a quel 9 luglio, non abbiamo firmato niente, solo quell'accordo quadro, nient'altro. E fino ad oggi dalla fabbrica non è ancora uscita una vite, come avevamo detto, e sarà molto dura che esca se le cose continuano così. Non solo non abbiamo vinto, perché in realtà il processo che si è instaurato è un processo di cosiddetta reindustrializzazione, che è una parola che sembra molto bella, reindustrializzazione, ma è, avendo studiato tutte le altre vertenze, il modo con cui tentano di bollire a fuoco lento tutte le vertenze del paese, perché la reindustrializzazione è quel meccanismo in cui devi aspettare che ti arrivino nuove produzioni, devi svuotare la fabbrica rimane per un periodo uno scatolone vuoto e loro ti portano nuovi macchinari. Nel frattempo puoi solo accedere alla cassa integrazione, perché non hai altre vie. La cassa integrazione è un meccanismo che ti droga, che ti assuefa, perché chi non ce la fa in cassa integrazione va via, chi ha una professionalità va via, chi rimane, dopo un po' rimane perché si abitua a un nuovo stile di vita più basso. Noi, grazie a livello sindacale che abbiamo, abbiamo strappato una buona cassa integrazione, quindi non siamo sotto un ponte, ma chiaramente non è come uno stipendio pieno, e nel frattempo ti abitui a stringere la cinghia, ti abitui al fatto che prendi un livello di soldi che, tra l'altro, noi prendiamo in cassa integrazione a zero ore più di 3 milioni e mezzo di persone in questo paese, e anche questo ti dimostra come tutto è collegato, perché vorremmo ottenere ancora di più, ma dopo un po' siamo bloccati, perché è quasi un insulto che in cassa integrazione a zero ore prendiamo più che 3 milioni e mezzo di persone in questo paese lavorando. E allora lanciamo il Tenete Liberi a marzo, per non eliminare la nostra narrazione, per dire che non è finita, lanciamo il Tenete Liberi a marzo. Lo lanciamo già dal 23 di dicembre, mentre loro gioiscono, noi diciamo non c'è nulla di cui gioire, noi non smobilitiamo, tenetevi liberi a marzo. E ci vogliono 2 mesi e mezzo di insorgiamo tour, ancora più capillare dell'altra volta, ancora più importante, ancora più politico se volete, per arrivare a quella mobilitazione, che poi è andata come è andata. Chi ha detto che eravamo meno di settembre, chi ha detto di più, sinceramente non lo so, eravamo sicuramente diversi, perché a settembre c'era una città facile da mobilitare, perché è facile dire mobilitati perché c'è il povero operaio che viene licenziato, un po' come il panda che si estingue, no? E noi il 26 marzo ci mobilitiamo non perché i licenziamenti sono dietro l'angolo, ma contro tutto il mondo che ha creato quei licenziamenti. Per quello diciamo che siamo fuori dall'emergenza e dentro l'urgenza, perché non c'è l'emergenza del licenziamento. Non ci mobilitiamo perché un fondo finanziario ci ha messo il licenziamento di fronte, ma ci mobilitiamo perché continuano a esistere fondi finanziari, perché le delocalizzazioni avvengono e avverranno, anche se ne abbiamo sconfitta una, e per tutto il resto delle mobilitazioni che erano in campo in quel giorno. E qua è il punto dove si finisce il libro, e si potrebbe discutere cosa avverrà dopo il 26 marzo, ma forse ho parlato troppo e si entra in un altro tipo di discussione, e vi ringrazio per l'attenzione. Prima di porre a Dario qualche domanda, do due comunicazioni che mi sono scordato di dare all'inizio. La prima è che qua c'è un banchetto dei compagni curdi, è un appello per cancellare il PKK dall'elenco delle organizzazioni terroristiche dell'Unione Europea. È un lavoro che stanno facendo da tempo, questi compagni portano avanti questa battaglia insieme alla liberazione di Öcalan in carcere da decine d'anni su un'isola turca, quindi invitiamo alla fine dell'incontro di firmare. Voglio ricordare che domenica all'una c'è un pranzo di autofinanziamento per il centro di documentazione dei movimenti, e qui c'è il banchetto per il libro in sorgiamo, prendetelo perché è interessante. Insomma, Dario ha raccontato tutte le cose, ma qua ci sono, è giusto avere secondo me anche una testimonianza scritta, si trovano queste cose su internet, ma averlo scritto ogni tanto a guardarsi secondo me può essere utile. La domanda che voglio fargli è questa, perché nel libro a un certo punto c'è scritto: noi non giochiamo in borsa, noi facciamo semiassi, per questo insieme a voi insorgiamo. Questa lotta è significativa perché è intervenuta in una dinamica prodotta dal capitalismo finanziario, dove la produzione ha sempre meno importanza, hanno più importanza gli spostamenti di capitali, gli spostamenti delle produzioni in vari paesi e il gioco in borsa. Quindi molto spesso negli anni passati si diceva che ormai non c'era più possibilità per la lotta operaia di andare a incidere nei rapporti tra capitale e lavoro, perché il capitale finanziario ormai aveva assunto un ruolo fondamentale in questi processi. Ecco, la lotta dei lavoratori della GKN dimostra in qualche modo che è possibile intervenire anche su quello. Quindi mi piacerebbe un tuo chiarimento ulteriore su questo punto. L'altra questione secondo me importante è questa. Il libro è firmato Collettivo di Fabbrica GKN. Il collettivo di fabbrica è qualcosa di diverso dalla struttura sindacale, e quindi sarebbe interessante anche conoscere le dinamiche che si sono prodotte, perché le RSU oggi, le rappresentanti sindacali unitarie, sono una cosa diversa dai consigli di fabbrica, che sono scomparsi nel nostro paese abbastanza in silenzio, e non è stata una modifica da poco per quanto riguarda le organizzazioni dei lavoratori. Il fatto che in una fabbrica nasca da qualche anno una struttura operaia con queste caratteristiche, secondo me anche questo è un aspetto significativo che deve essere valorizzato. L'ultima cosa, lo diceva anche Dario, i lavoratori della GKN sono poco più di 400, i lavoratori e le lavoratrici colpite dal provvedimento sono 500, dentro a questo numero di lavoratori ci sono anche i lavoratori delle aziende appaltatrici. Il fatto che siate riusciti a tenere insieme tutte le componenti è un altro aspetto importante e abbastanza unico. Oggi nelle aziende c'è questa propria divaricazione tra le presenze diverse di lavoratori che appartengono formalmente a ditte diverse, che partecipano tutti al processo produttivo, hanno delle caratteristiche dal punto di vista salariale molto differenti, e molto spesso succede che lavoratori che fanno lo stesso lavoro hanno salari differenti. Nelle fabbriche bolognesi, anche quelle importanti, sempre più spesso succede di vedere che attraverso la legge Bolkestein arrivano operai polacchi, rumeni, che lavorano sei mesi a condizioni da 4-5 euro all'ora. In fabbriche sindacalizzate nessuno dice nulla. Quindi anche questa scelta che avete fatto di tenere tutti assieme è un'altra cosa molto importante. Non so se si vuole prendere più domande. Ci sono altre domande, oppure facciamo rispondere a queste, poi dopo facciamo un altro giro di risposta sua? O qualcuno vuole porre domande subito? Allora, sì, il fondo finanziario noi ci acquisisce nel 2018, non è che quelli prima fossero santi, diciamo così, è un'evoluzione della specie, nel senso che prima noi eravamo proprietà di un fondo obbligazionario pensionistico scozzese, era il nostro azionista di maggioranza. A dimostrazione di come ci piaccia o non ci piaccia, tutto è collegato, e di come appunto la famosa scelta individuale, soluzione individuale, poi in realtà sia soltanto fittizia, perché ci hanno raccontato anni che attraverso i fondi pensionistici avremmo salvato la nostra pensione. A parte non è vero nemmeno dal punto di vista matematico, ma non voglio entrare in questo, ma anche se lo fosse, noi eravamo appunto eravamo di proprietà di uno di quei fondi che usava appunto i contributi dei lavoratori per giocare in borsa. Solo che poi il fondo obbligazionario nell'era della liquidità facile mostra il passo e quindi arriva l'evoluzione della specie, il fondo speculativo azionario finanziario, che il fondo Melrose è sostenuto da delle istituzioni finanziarie che, così ci è stato detto, devo essere sincero, non abbiamo mai avuto modo di controllare, ma così è stato dichiarato in un tavolo ministeriale. Gli istituti finanziari che possiedono Melrose possiedono anche un terzo del debito pubblico italiano. Quindi a noi fa ridere quando dicono il fondo finanziario se n'è andato. Il fondo finanziario è qua, tra noi, Melrose, le istituzioni finanziarie che lo sorreggono, sono qua tra noi, e basterebbe questo dato per spiegare come mai la legge antidelocalizzazioni non si è data e non si darà. E basterebbe questo dato per spiegare come mai negli ultimi 40 anni e oltre ci sono alcune linee di tendenza su salari, diseguaglianze, tassazione, che vanno avanti indipendentemente dal governo che c'è. Se io guardo una linea di diseguaglianza sociale che si amplia e sono passati 20 governi differenti, mi devo dare la risposta che il problema non è nel singolo governo, ma in qualche forza che sorregge quei governi. E questo vale per le diseguaglianze, vale per tutte le politiche sociali che sono portate avanti. Anche per questo, tra l'altro, noi non abbiamo mai nominato nelle mobilitazioni che abbiamo avuto, se ci fate caso, il governo Draghi. Non entriamo mai nella dialettica governo Draghi sì, governo Draghi no, perché la verità, e lo pensiamo seriamente, per sconfiggere la singola misura del singolo governo devi essere un mondo nuovo in cammino, e quindi devi anche evitare di farti ridurre all'interno della polarizzazione della dialettica dell'attuale scenario politico istituzionale, perché ti hanno dimostrato che sono in grado di rendere pervasive le loro idee, le loro pressioni, indipendentemente purtroppo da questo o quel governo. Hanno tanti altri meccanismi per portare avanti le loro politiche. E come sconfiggiamo il fondo finanziario? Con la materialità della nostra produzione, dei nostri corpi, e anche sfidandoli sulle loro stesse parole, nel senso che comunque quello che abbiamo chiaro sin dall'inizio, questo non negli ultimi 3 anni, ce l'abbiamo sempre avuto chiaro, ma negli ultimi 3 anni è diventato stringente, il fondo finanziario a un certo punto ha una debolezza, che rispetto ai nostri corpi, a quelle macchine, a quello stabilimento, al territorio, alla fisicità di quello che rappresentava, ha dei limiti che non può superare. E per cui può ordinare con un clic sul mouse lo spostamento della produzione, non può però determinarla nella misura in cui siamo noi la produzione, siamo noi la fabbrica. E per fare questo costruiamo il collettivo di fabbriche e delegati di raccordo, che quindi avvengono per ragionamenti di democrazia partecipativa, ma non una democrazia partecipativa astratta fino a se stessa. Noi ci chiediamo come possiamo controllare la fabbrica. Controllare la fabbrica sia dal punto di vista rivendicativo, perché per capire cosa stava facendo il fondo finanziario, no, dentro la fabbrica noi dovevamo sfruttare quello che eravamo, gli occhi, i cervelli, le braccia di quella fabbrica. Per cui dovevamo controllare il magazzino, dovevamo controllare gli uffici, dovevamo controllare gli ordini, dovevamo controllare le linee, perché dovevamo sapere prima quello che stavano facendo nella materialità della fabbrica, perché come vi ho detto loro firmano una serie di accordi dove ci tranquillizzano. Cioè fino, noi l'ultima volta li vediamo il 6 giugno, se non mi sbaglio, e ci dicono che ci saranno 12 esuberi nel 2021 e che però li gestiremo. Cioè, ci facevano vedere i business nuovi che arrivavano. Hanno mentito fino agli ultimi dettagli. Quando hanno capito, lo hanno capito quando scioperiamo nel luglio del 2020, che noi controllavamo ogni aspetto della fabbrica, iniziano a mentire anche sulla materialità della fabbrica. Cioè, la cosa che fa scalpore in GKN è che noi avevamo le linee nuove in costruzione, i robot incelofanati, avevamo 7 pancali di vestiti appena arrivati, 20.000 euro di batterie, di muletti appena arrivate nuove, 2 settimane di viveri in mensa, cioè hanno dovuto mentire su tutto, perché noi tutte queste cose ve le sto dicendo perché le sapevamo, e le sapevamo perché noi siamo la fabbrica, noi la mandiamo avanti, noi la conosciamo, e quindi avevamo radicato il collettivo di fabbriche e delegati di raccordo per portare avanti la lotta. I consigli di fabbrica non nascono perché qualcuno un giorno si mette a tavolino e dice ok, secondo me la democrazia si fa così, ma nascono sulla base delle esigenze della lotta, perché la lotta, quando arriva a un livello più alto, ha bisogno di forme partecipative, di collegialità, non per spirito democratico, che peraltro la lotta ha, perché noi da sempre riconosciamo nell'assemblea lo strumento sovrano dei lavoratori, ma perché altrimenti non reggi, non tieni botta. Ti devi costituire in una nuova forma di democrazia se vuoi costituire una forma di contropotere, di controbilanciamento a quello che fa l'azienda, a quello che fa la multinazionale, a quello che fa il fondo finanziario. Devi controllare la fisicità del processo produttivo da contrapporre all'astrazione del loro essere finanziario. E nel fare questo ci riappropriamo anche delle loro stesse parole, credo che lo scriviamo nei comunicati. Noi non solo ci vogliamo riappropriare delle nostre parole che loro ci hanno tolto, appunto hanno tentato addirittura di toglierci la parola vittoria, di darle un altro significato, ma anche delle loro parole: produttività, efficienza, industria, perché la verità è che a un certo livello l'attuale potere è tremendamente incompetente, è tremendamente inefficiente. Gli appalti, che sono una logica devastante per i diritti sociali delle lavoratrici e dei lavoratori, non hanno nemmeno nessuna giustificazione sul piano produttivo, sono un elemento di inefficienza produttiva. Dovunque hai appalto, hai un livello di inefficienza, di mancanza operativa, che noi li abbiamo sbattuto sempre addosso. In GKN si lottava per difendere l'articolo 18 e si lottava contemporaneamente per avere un piano manutenzione, si scioperava da sempre come se la fabbrica fosse nostra, se per esempio il livello degli scarti era troppo alto, perché il livello degli scarti troppo alto noi lo leggevamo come un tentativo della multinazionale di bollire la fabbrica per andare a dire un domani la fabbrica è inefficiente. Tant'è che loro l'hanno detto che la fabbrica era inefficiente, ma era inefficiente sì, 40 milioni di investimenti, i macchinari nuovi che venivano lasciati lì, fermi, una linea portata, l'hanno fatta lavorare 6 mesi, costruita nuova, poi l'hanno fermata, aveva 500.000 euro di perdita quella linea a stare ferma, perché le linee nuove perdono in termini di ammortamento. Quindi noi ci siamo sempre rapportati alla fabbrica come se fossimo la classe dirigente di quella fabbrica, e sfidandoli sul terreno dei diritti, sul terreno del salario, sul terreno delle assunzioni, ma contemporaneamente dimostrando sempre, non per filo aziendalismo, non per produttivismo, ma perché era la realtà, che noi quella fabbrica l'avremmo mandata avanti meglio di loro. E questo proprio per mettere in evidenza come l'attuale capitale finanziario sia totalmente astratto rispetto alla vita delle persone. L'attuale capitale finanziario è anche l'attuale livello dei manager, degli amministratori delegati, eccetera. Poi, facendo l'Insorgiamo Tour, ci siamo resi conto che questo era il livello un po' ovunque. Cioè, un paese, in questo momento l'Italia, che ha questo senso di incompetenza, usano tutti questo termine, incompetenza, ognuno di noi ha tendenzialmente un capo incompetente, se non ce l'avete meglio per voi, non è che, meglio così, non è che io sarei per un mondo senza capi, però se il capo intanto è competente è meglio, ma è molto raro, e questo non è il risultato, come dire, di un caso, è il risultato di un sistema che ha verticalizzato completamente le decisioni, che è completamente astratto, che mente sapendo di mentire così tanto che a volte si scorda anche che mente, per cui forse sono anche convinti di dire la verità, e che seleziona in base a fedeltà, restrizione di diritti, appalti e tutto, e quindi seleziona una classe dirigente che è scadente, a tutti i livelli è scadente. Quindi noi siamo posti come la classe dirigente del territorio e della fabbrica in contrapposizione al fondo finanziario. Il collettivo di fabbrica nasce dopo 10 anni di tentativi, abbiamo fatto prima il comitato cassa integrati nel 2008, abbiamo fatto le class unions, abbiamo fatto le assemblee, è nato sempre da un ragionamento. Noi nel 2007 riusciamo a invertire la linea sindacale concertativa, perché c'è un ribaltamento di rapporti di forza dentro l'azienda. Ora sarebbe lungo spiegare, però sostanzialmente un gruppo nuovo di lavoratori vuol fare sindacato e la reazione del sindacato ufficiale è quella di inventarsi nel 2007 un allarme Brigate Rosse totalmente inventato per farci finire su tutti i giornali e inibire la lotta. La cosa va molto male perché i lavoratori sanno che non è così e quindi addirittura il risultato è che il sindacato ufficiale per tanti anni in GKN non rimette piede dalla vergogna e per il clima che si era determinato tra i lavoratori. Però ci troviamo, scusate il termine, forse non appropriato, col potere in mano, con la maggioranza, e scopriamo di non saperlo utilizzare. Cioè scopriamo che il mal di pancia non basta, che costruire un quadro, un attivista sindacale completamente nuovo è tutta un'altra cosa, che i lavoratori in GKN scioperano, perché noi bastava fischiare e si andava tutti di fronte ai cancelli, poi ti chiedevano perché scioperavamo, da tanto era la fiducia. Prima fischiavamo e poi ci chiedevano perché scioperavamo. Non tutti gli scioperi, molti erano preparati con lunghe assemblee dove si discuteva insieme come e quanto scioperare, poi c'erano anche quelli improvvisi. E lì scopriamo che c'è una delega passiva e che questa delega passiva non ci porta da nessuna parte. Porta al massimo noi dell'RSU a burocratizzarci, perché tu puoi avere la fiducia dei lavoratori, se però poi passi la tua vita al direttivo, in trattativa, a leggere la busta paga, a discutere il fondo pensionistico, dopo un po' non ti ricordi nemmeno più com'è fatta la macchina dove lavoravi. E la verità è che non hai preso tu il sindacato, ma il sindacato che ha preso te. È un po' un meccanismo diverso. E invece noi volevamo prendere il sindacato e prenderlo come strumento per tutti i lavoratori. E quindi passiamo da varie forme. Una forma, l'ultima, è quella del collettivo di fabbrica. Il collettivo di fabbrica semplicemente dichiara questo principio, che per fare attivismo sindacale dentro un'azienda non devi avere né la tessera, e puoi avere anche tessere diverse, basta che sei attivo, basta che sposi i principi del collettivo, perché il collettivo aveva una carta dei principi, solidaristici, comunitari, eccetera. Poi c'è un altro problema però che ci si pone quando si crea il collettivo, che il collettivo è un organismo fluido, a volte eravamo in 30, a volte si è ritrovati in 100 alle riunioni, fuori dall'orario di lavoro, il collettivo non si basava sui permessi, ma sul volontariato. E dovevamo invece capire su quali effettivamente attivisti ci basavamo costantemente, per cui creiamo delle altre figure, i delegati di raccordo, che sono 12, che sono annuali e che si vanno a sommare ai 7 RSU, quindi 7 RSU più 12 delegati di raccordo più un rappresentante della sicurezza aggiuntivo faceva un consiglio di fabbrica di 20 persone su una fabbrica di 400, e il fatto che i delegati di raccordo cambiassero ogni anno ci obbligava ogni anno a discutere chi poteva essere responsabilizzato nella fabbrica. Tra l'altro andando a creare una struttura simmetricamente opposta a quella aziendale, che invece era quella dei team leader. Perché un'altra cosa che abbiamo notato è quel meccanismo subdolo e devastante che hanno le aziende di creare gerarchie fittizie, spesso basate su differenze di 20-30 euro, che però cambiavano i colleghi. Io ho visto colleghi di reparto cambiare, perché l'azienda diceva, arrivava lì e diceva tu sei team leader, prendeva 50 euro più di me. E si faceva anche a volte un culo peggiore dal punto di vista mentale, perché come tutti i caporali negli eserciti prendono le botte dal soldato semplice, dal sergente e anche dal generale, però come dire, poi non me li vedevo più allo sciopero. Ecco, noi abbiamo fatto il contrario, abbiamo creato una ramificazione di ruoli di responsabilità dalla nostra parte. Sull'indotto la storia non è felice, o lo è soltanto in parte, perché grazie ai legami che noi avevamo stabilito, se non avessimo avuto con noi l'indotto, la fabbrica non l'avremmo potuto autogestire, perché poi l'autogestione della fabbrica è un elemento di funzioni della fabbrica. Quindi le lavoratrici e i lavoratori delle pulizie, che erano in appalto, sono stati quelle che hanno pulito il primo 2 mesi la fabbrica. Tra l'altro, a differenza nostra, loro non prendevano niente, perché noi comunque siamo stati a stipendio pieno durante 75 giorni di procedura. Loro no, perché l'appalto fallisce. E gratuitamente puliscono la fabbrica. Poi un giorno le ragazze delle pulizie ci fanno lo sciopero, hanno fatto lo sciopero contro l'assemblea permanente, perché non eravamo abbastanza attenti ai bagni, al che è rientrato lo sciopero, non è stato niente di che, anche un giorno, per una settimana non sono più venute, ho detto che succede? Succede che che si deve creare una scuola di pulizia dell'assemblea permanente. Quindi hanno preso, hanno insegnato ai nostri lavoratori, a noi, a pulire i bagni, cioè gli hanno dato tutto il meccanismo, eccetera, per cui da quel momento in poi le lavoratrici degli appalti e le pulizie si sono trasformate nelle coordinatrici, nelle team leader delle squadre di pulizia dell'assemblea permanente, e non ho mai visto i bagni GKN così puliti. Poi quando è tornato il padrone sono tornati sporchi, perché da 5 mesi non ci mandano le pulizie, ma questo è un altro discorso. Ma quando li pulivamo noi, c'era una pulizia incredibile, perché pulivamo noi. E quindi anche se ogni tanto vi chiedono, perché a me me l'hanno chiesto tante volte, ma figurati nel socialismo chi pulirà i cessi? Tutti. E quindi saranno tutti ancora più puliti e ancora più facilmente da pulire. Infatti i ragazzi quando pulivano dicevano, ci mettiamo un attimo perché andiamo a pulire sul pulito, perché tutti sono rispettosi dei bagni, mentre non avete idea che cosa si scarica dentro i bagni di un'azienda metalmeccanica di quasi soli uomini, con invece donne che fanno le pulizie, si scaricano nevrosi, ossessioni compulsive, mancanza di rispetto, gerarchizzazione dei rapporti tra le persone che vengono scaricate in quei bagni, per cui non vi raccomando che siano alle 6 di mattina dopo un turno di notte. E purtroppo però noi credo che siamo una delle poche fabbriche dove noi abbiamo lottato per l'indotto, ma l'indotto non è riuscito a emanciparsi dal funzionariato sindacale, perché fondamentalmente la cooperativa era una cooperativa che avevamo sindacalizzato, ma sindacalizzata vecchio stile, per cui quello che ha fatto, l'unica cosa che ha fatto la cooperativa di lotta in questi 10 mesi è stato un presidio un giorno di 2 ore di fronte alla regione. Ne siamo andati e ho detto scusate, ma che roba è questa? Tant'è che loro hanno firmato una cassa integrazione per cessazione d'attività. La prima volta dissero firmeremo, la CISL disse, perché loro hanno la CISL, da noi quasi non c'è, dissero firmeremo una cassa integrazione per cessazione attività, lo dissero a luglio, penso ci sia nel libro, e noi non si fece storia, se non c'è problema facciamo sparire tutte le bandiere CISL dal presidio, e infatti le bandiere CISL sparirono. Un mese dopo lo firmava la CGIL, questa è un'altra grossa tattica, no? Prima dici di no, poi non fai nulla e alla fine i lavoratori cedono da soli, perché i lavoratori poi si sono autoapprovati la cassa integrazione per cessazione attività nell'indotto, perché non vedevano nessuna alternativa alla mobilitazione. Quindi diciamo così, la nostra esperienza è che se non stringi un contatto con i lavoratori degli appalti, degli indotti, dei precari, sei fuori, perché a un certo punto, quando scoppieranno i licenziamenti, un pezzo della fabbrica è già licenziata e non sarà con te a lottare. Gli appalti precari vanno via subito. E dall'altra parte non siamo riusciti a creare un unico fronte di lotta, se non con un pezzo piccolo degli appalti e le pulizie, 7 compagni e compagni che oggi sono con noi e che abbiamo ottenuto che a settembre vengano assunti direttamente in fabbrica. Ci sono domande? Sì, stiamo registrando, bisogna farla. Dunque, alcune di queste cose ci sono nel libro. No, vabbè, però anche gli archivi devono essere chiusi. Ok. Prego. Sì, così registriamo, grazie. Ciao. Ciao. Addirittura. Wow. Sì, okay, sì. Bellissimo. Ok, allora, cerco di essere lineare, sarà molto difficile. GKN ha avuto, diciamo, uno dei suoi punti di forza durante tutto il percorso è che è un movimento che è riuscito a fare paura, in un certo senso, alle istituzioni, che hanno risposto con delle concessioni finora. In molti altri casi, durante gli ultimi mesi, la paura ha invece portato a forme di repressione. Penso soprattutto ai movimenti studenteschi, a quello che sta succedendo a molti movimenti ambientalisti, e di ieri la notizia di 3 attivisti di Fridays Milano che sono stati perquisiti in casa dopo un'azione che è stata fatta contro Gazprom, e la perquisizione è stata chiesta proprio da Gazprom, che neanche una settimana fa ha stretto dei rapporti con Eni proprio per, insomma, continuare le esportazioni, le importazioni di gas. E siamo insomma, all'interno del movimento ambientalista siamo molto preoccupati per queste escalation di violenze istituzionalizzati che stanno man mano crescendo e, come posso dire, spaventano un po' in generale, perché mettono molta pressione sulle pratiche da utilizzare anche per rispondere a queste violenze sistemiche. Settimana scorsa all'Assemblea Nazionale sono stati fatti molti discorsi sulla violenza, sulla guerra, ma è ancora un grande interrogativo, soprattutto perché non ci si può accontentare delle concessioni. Molto spesso per vincere le battaglie bisogna anche forzare i cancelli, e queste azioni di forza, di risposta, sono probabilmente il grande bivio in questo momento, per cui non so se c'è una posizione, se è ancora in discussione, almeno un'opinione al riguardo. Grazie. C'era lui un'altra domanda? No. Sì. Ma più che una domanda è una battuta così. Io sono di Firenze, quindi. Stai dietro le casse. Ma l'umorismo fiorentino non lo capisco ogni tanto, ti avverto. Niente, allora io mi ricordo benissimo quando ho iniziato l'estate scorsa tutto il percorso, quindi mi fa sempre commuovere quando lo riracconta. C'è stato un momento in cui io mi era presa un po' male, e era il 18 settembre. Avevamo pensato molto bene a un corteo con Mondeggi di contestazione al G20. Sarebbero venuti i ministri dell'agricoltura e noi volevamo contestare appunto tutto l'apparato capitalista dell'agricoltura globale, la globalizzazione. E quindi abbiamo chiamato questo corteo a fine agosto. Due settimane dopo esce che fanno il corteo GKN e non diciamo cazzo. E poi si sommò altre cose, il Pride, e venne una giornata strapiena a Firenze, dove tutto poi convogliò in GKN e il nostro corteo andammo a piedi da Firenze a Mondeggi, diciamo 8 km circa a piedi in salita alla fine. E alla fine eravamo 200, fu una cosa bellissima, quindi però ci rimase un po' l'amaro dicendo magari se non si accavallava eravamo di più, facevamo più rumore, si sarebbe parlato anche di noi, perché poi giorni dopo si parlò solamente. Questo era. Ci sono altri? Prego. Di che. Io un po' che stavo macinando a che domanda fare, quindi verrà, sarà poco il cosa chiederò e male, scusa per partenza. Figurati. Allora, secondo me il punto di svolta di tutta questa storia, come l'hai citato tu, è stato quello di... Ci si sente? Ok. Il punto di rottura è stato quando qualcuno di voi ha forzato i cancelli. Cioè per me da lì ho iniziato a macinare, no? Perché ho detto, quando si sono forzati quei cancelli si è invertito in qualche modo, o si è mandato in crisi un sistema di potere molto definito, no? E quindi poi ho pensato, cosa succederebbe se... Se ci fossero, ci saranno altre GKN, cioè se altre volte questo meccanismo di potere inizia a rompersi, magari nel peggiore dei casi soltanto a livello localizzato, geolocalizzato, ma anche in altri modi, se tutte le fabbriche facessero come GKN, cosa succede? E partendo dal presupposto, credo che al padrone, o perlomeno anzi all'uomo di potere, serve sempre una vittoria schiacciante e in una sola mossa, perché se succede come un'altra volta in GKN in cui si rompono i cancelli, quindi la vittoria non è schiacciante, non è in un colpo di mano soltanto, ci si paralizza, si va in panico e si deve fare un passo indietro. Però il presupposto su cui si basa il potere e i sistemi di potere è che un passo indietro è legittimo per poi farne 10 altri in avanti. Il dividere è divide et impera, come dicevano i romani, no? Quindi se ci fossero tante altre GKN, credi che, o credete in generale, che il sistema possa incepparsi, possa arrivare a un punto di non ritorno a essere cambiato? O si finisce come a lungo andare nel Gattopardo, con una lenta sostituzione di ceti anche tra chi dovrebbe combattere nello stesso fronte? That's it. Piccola domanda. Hai ragione, mi ero messo a macinare, ho detto cavolo. rispondiamo a questo giro. Cioè, sì, grazie. Dipende dalla curiosità. Io volevo solo chiedervi una curiosità, ho seguito un po' tutta la vertenza e tutta la mobilitazione e grazie insomma per essere qui a condividerla con noi. E, la parte che mi ha più, come dire, incuriosito è quella relativa proprio al collettivo in comunicazione, immagino, con l'RSU o comunque insomma costituito da delegati RSU che lavorano lì da, immagino, tantissimo tempo. La mia domanda è: qual è la composizione della fabbrica? Quanti operai siete? Quanti impiegati? E questa domanda te la faccio perché l'anno scorso mi è capitato di partecipare a un'assemblea di RSU di una fabbrica dove ho lavorato anch'io da impiegata qui di Bologna, dove ho visto un grande astio, diciamo, fra impiegati, in particolar modo quelli a cui facevi riferimento te prima, su cui concordo totalmente, e operai, e mi domandavo come potesse essere possibile creare, come dire, insomma, una connessione ed evitare che si scannassero in assemblea, cioè nella riunione dell'RSU. Quindi questo, grazie. Bene. Vai, dai. Ah, c'è anche lei, ok. Ma io cioè sono al di fuori, adesso sono una pensionata, quindi è tutto un altro campo, però volevo dire una cosa. Cioè, questa lotta mi sembra una lotta formidabile, nel senso che in un momento così, così confuso, così difficile, con una pandemia così forte, la volontà che è uscita, diciamo, da una fabbrica che ha preso in mano il proprio destino, perché di questo si tratta, mi sembra una lezione in qualche modo da valorizzare. E in secondo luogo, io credo comunque che siamo in un momento estremamente grave, nel senso che questo processo di militarizzazione coinvolgerà la produzione, coinvolgerà le fabbriche, perché comunque cioè ormai la priorità è la costruzione di armi, il cercare di di invertire la produzione di beni di consumo alla costruzione di nuovi modelli di armi, poi nuove alleanze. Cioè l'Europa non è più un centro, diciamo, di comando, ma ormai sappiamo che la Russia e l'America sono di nuovo le potenze mondiali che tendono a egemonizzare mercati, stati, finanza e quant'altro. Quindi la nostra unica speranza è che proprio dal basso, no? Dalle fabbriche, dalla costruzione di lotte che convergano, pur con tematiche a volte anche diverse, possono, diciamo, invertire questa tendenza che comunque è inarrestabile, perché hanno già deciso, cioè non è che dall'oggi al domani si improvvisa una guerra o dall'oggi al domani si improvvisa un mercato. E quindi io ringrazio molto queste esperienze, no? Perché ci possono insegnare tanto, ci possono indicare dei percorsi nuovi, delle forme nuove di socialità, delle forme nuove di collaborazione. Io non so, ho letto anche su Macromedia, no? Che ci sono stati degli articoli sul GKN, perché proprio si sono invertiti i rapporti sociali tra le persone, è nata una solidarietà tra le persone, no? al di fuori di questo impero, di questo individualismo che ormai, voglio dire, Putin e Biden non sono niente in confronto alle multinazionali, in confronto ai mercati, in confronto ai costruttori di armi. Ecco, basta, volevo dire solo queste cose. Ti tocca. Ok. Allora, in realtà avete chiesto cose che sono indirettamente tutte collegate, vediamo se riesco a rispondere a tutti facendo però una risposta organica. Se ci fossero altre GKN, perché ci siano altre GKN, perché ci siano in un tempo utile, perché questo possa effettivamente determinare qualcos'altro, avremo bisogno di un lungo periodo di preparazione. Perché, lo ripeto, lo sfondamento del cancello non era scontato. Io ero tra quelli che ha sfondato, ma non ho sfondato io, ho sfondato qualcun altro, abbiamo sfondato tutti. Cioè lì, se i miei colleghi, i miei compagni, i miei amici, scusate se parlo al maschile, ma non è che lo faccio perché ignoro il femminile, che purtroppo in GKN siamo tutti maschi, questa è una lunga storia comunque. No, ma lo dico perché sennò uno non coglie un passaggio. Purtroppo le lavoratrici sono nell'appalto delle pulizie. Ed erano alcune lavoratrici erano nel settore impiegatizio, ma non hanno mai sostenuto la lotta, poi dopo hanno iniziato a sostenere la lotta. Comunque, chiusa la parentesi, quando abbiamo sfondato il cancello, l'abbiamo sfondato tutti e c'è stato un impeto di orgoglio, di dignità, anche di scacciare insieme la paura, perché noi non sapevamo a che livello repressivo saremmo andati incontro quando abbiamo sfondato quel cancello. E da lì è iniziata una serie di scelte che potevano far finire quella lotta in ogni momento. La prima si verifica pochi secondi dopo che abbiamo sfondato, perché ci dicono immediatamente alcuni funzionari: non fate la cavolata di andare in officina, andate in mensa nel luogo dell'assemblea, perché se no chissà cosa rischiate. Ed è stato bello rispondere in quel caso: guarda, è già deciso, perché mentre questo funzionario mi diceva a me di non andare in officina, i ragazzi erano già tutti in officina, quindi la discussione era già chiusa. Se noi fossimo andati in mensa, quella lotta finiva lì, perché fondamentalmente cioè, non puoi andare in guerra con la paura, non puoi. Cioè, primo atto che fai dopo aver sfondato un cancello è non prenderti l'officina. È anche suicida come tattica, perché fai un atto di rottura e contemporaneamente un atto di diplomazia, quindi ti schiacciano perché sei in mezzo al guado. Comunque, anche questa parentesi chiusa, però è anche vero che questa è stata la reazione quel 9 luglio mattina, ma come ho detto noi avevamo preparato il potenziale controllo della fabbrica. Cioè, se non ci fosse stato quel capillare collettivo di fabbrica, il comitato, i rapporti sociali che noi avevamo creato, perché se vi capiterà mai di essere inclusi nel gruppo WhatsApp, gruppo supporto GKN, nei gruppi WhatsApp c'è la data di creazione 2018, perché noi il gruppo di supporto, cioè delle realtà solidali attorno alla fabbrica, l'avevamo creato nel 2018. Il simbolo del collettivo di fabbrica l'avevamo fatto fare da un compagno, un RSU di un'altra azienda informatica nel 2018, quindi ci eravamo preparati, e purtroppo in tante aziende questo livello di preparazione non c'è. Io non credo che possiamo permetterci per ogni azienda di avere 10 anni di preparazione, perché altrimenti non si arriverà mai. Quindi, perché ci siano altre GKN, è il tempo della politica e del sindacato di questo paese che deve accelerare. E noi ci dobbiamo chiedere come possiamo accelerare questo processo di risveglio. Noi abbiamo individuato questa possibilità di accelerazione nella convergenza delle lotte. Cioè nel fatto che se tu inizi a darti delle scadenze comuni, delle lotte comuni, a rendere intersezionali effettivamente nel loro sviluppo le lotte, crei un livello di contagio, di contaminazione, di metodi, di mentalità di parole, di linguaggi che ti permettono di accelerare questo processo. Per cui se vi domandate come si può trasformare il tecnicismo burocratico sindacale che domina la stragrande maggioranza delle RSU o RSA, peggio ancora, presenti nella stragrande maggioranza in luoghi di lavoro e molti tesserati sindacali, noi vi diciamo che la sfida è quella di far nascere il movimento, il processo, insorgiamo, di convergenza nel paese, anche su lotte apparentemente non collegate ai luoghi di lavoro, e sarà più facile per chi sta dentro luoghi di lavoro portare un linguaggio nuovo, avere un immaginario collettivo a cui rifarsi. Questo è l'unico modo, l'unica risposta che noi siamo dati perché ci siano altre GKN. Non possiamo permetterci altri 10 anni di accumulazione di sapere dentro altre aziende. E in più c'è l'elemento della repressione. La radicalità dei gesti è importante, da credibilità a tutti noi, perché purtroppo viviamo in un mondo dove siamo affogati nelle parole, nei proclami, e quindi senza una credibilità qualsiasi parola si perde, viene sussunta. E quindi noi ci rendiamo conto che tutto è partito da quello sfondamento, perché lì abbiamo fatto capire che facevamo sul serio. Eppure non è arrivata la cenere, ad oggi non sono ancora arrivate le denunce. Qualcuno ci ha anche detto, allora se non sono arrivate vuol dire che in fondo questa lotta non è così reale. Poi penso che se qualcuno è passato in fabbrica si sia reso conto invece di quanto è reale la lotta e di quanto sia una lotta per il controllo effettivamente dello stabilimento, della produzione, del nostro futuro. Non è arrivata perché sarebbe stato un disastro se ci avessero mandato la cedere. Cioè noi un pochino la sera ce lo dicevamo anche, magari arrivasse, che sai che bella semplificazione è celere, operai GKN, altro che insorgere, il territorio scoppiava se ci mandavano la celere, e per questo non ce l'hanno mandata, perché comunque avevamo costruito dei rapporti attorno a noi che non gli hanno permesso di denunciarci e di mandarci la celere. Ancora l'altra sera siamo andati al concerto di Pelù che ci ha invitato a Firenze e noi dicevamo vabbè andiamo, ma ora è tanto che non si parla di noi, ci piombiamo alle 11:30 sul palco di un concerto, chissà che cosa, cioè gli romperemo anche un po' le scatole, facciamo 30 secondi e via. È stata un'ovazione quando siamo entrati, come ho detto GKN, cioè, questo è stato quello che ha permesso che la repressione non ci colpisse. Quindi un misto di reti sociali, di solidarietà che un po' ci siamo creati, un po' ci sono arrivate, perché non tutto è merito nostro, anzi è merito molto degli altri, e quindi noi dobbiamo continuare con la radicalità dei gesti, ma la convergenza e l'allargamento della mobilitazione deve essere interpretata anche come un'urgenza proprio alla luce del livello di repressione che si sta verificando. Ogni insorgiamo tour che noi abbiamo fatto, vedevamo sui territori livelli di repressione spaventosi, che poi magari venivano anche sconfitti in sede giudiziaria, cioè andavamo a Cosenza e c'era la sorveglianza speciale per chi era protagonista del movimento di lotta per la casa, andavamo a Napoli e ci dicevano che il movimento di lotta dei disoccupati gli hanno fatto delle misure in cui li accusano di improbabili contatti con la malavita, eccetera. Sono arrivati le 11 misure cautelari e arresti per gli studenti a Torino e potrei continuare, e ora questo di Fridays for Future che anche noi abbiamo saputo da poco, ora domani faremo un comunicato di solidarietà. Quindi questo processo che noi stiamo provando ad aprire è veramente urgente anche per questo, perché altrimenti il prossimo sfondamento dei cancelli si incontrerà non con la solidarietà ma con l'isolamento determinato dalla repressione, e non sappiamo quanto tempo abbiamo. Cioè più rallentiamo questo processo e più continuiamo a vivere nella nostra routine politica, organizzativa, individuale, più diventa pericoloso questo processo, perché tante volte noi non siamo coerenti rispetto alle parole che noi stessi pronunciamo. Cioè, tutti noi stiamo dicendo che c'è un'escalation bellica mondiale. Non entro nella discussione Putin, Zelensky, resistenza ucraina, se volete ci entro anche, ma non è questo il compito della discussione. Il punto è che per portare avanti una simile escalation devi militarizzare l'informazione, devi militarizzare i territori, devi militarizzare la vita sociale e devi ovviamente reprimere le mobilitazioni sociali e il dissenso. Per cui se noi diciamo questo, dobbiamo anche dire che questo livello di repressione aumenterà, ma non nel senso che ci sarà il fascismo alle porte, ma nel senso che le singole isole di resistenza che ci sono in questo paese, che noi abbiamo toccato con mano con l'Insorgiamo Tour, che si potrebbero unire, invece inizieranno ad autoisolarsi, a dover rispondere alla repressione, ad avvitarsi sulla risposta a questi meccanismi, a interrogarsi su come rispondono a questi meccanismi e quindi a parlare sempre meno alle persone attorno, perché la repressione ha questo come conseguenza, che tu ovviamente hai delle denunce sul capo, inizi a parlare delle denunce, e quindi alle persone arrivi parlando delle denunce, non parlando della mobilitazione, delle ragioni per cui hai preso queste denunce, e cadi nell'aneddotica, devi spiegare perché ti hanno denunciato, che tu in realtà non c'entri, come mai è assurda la denuncia, entri su un altro terreno. Ecco, quindi la convergenza, il processo che c'è stato attorno a GKN ci ha salvato da questo livello di repressione, e noi abbiamo l'urgenza di allargarlo. Operai impiegati. E Fiorentini fanno così, interrompo. Ora vado io, sono in civili. Domani a Milano, alla Gazprom, ci sarà un'azione di risposta a questa repressione. Volevo dire che, insomma, fateci caso, cercate un po' delle notizie, di sicuro troverete qualcosa domani sera. Per ribadire che non è reprimendo che risolveranno i loro problemi. Allora, su operai impiegati, rispondo su operai impiegati, poi chiudo con un ragionamento breve, spero, la stanchezza fa parlare troppo. Sì, anche in GKN c'era la contrapposizione operai impiegati, una contrapposizione così forte che a volte, se volevi buttare in cacciara l'assemblea, basta che dicevi ma gli impiegati, sì è vero, gli impiegati non sono mai in assemblea, eccetera. Noi in realtà ci siamo interrogati parecchio su questo meccanismo. La verità è che c'è un settore di lavoro impiegatizio, amministrativo, creativo, culturale, informatico, va dal creativo vero e proprio fino appunto all'amministrativo, dove la potenza della narrazione avversa a noi è stata tale da non solo togliere i diritti, ma da togliere anche la parola lavoro, la parola fatica. Cioè noi alla fine a un certo punto l'abbiamo ribaltata, siamo andati a dire agli impiegati: guardate, il problema non è che voi siete impiegati e che non venite all'assemblea, il problema è che voi state peggio di noi, ma tanto peggio, e non vi rendete conto nemmeno di quanto state peggio. Cioè noi stiamo facendo le lotte perché abbiamo la spalla che ci parte, la catena di montaggio, voi ci avete il mal di schiena a stare seduti al computer, non sapete nemmeno quante ore di lavoro fate al giorno, non le riuscite nemmeno a quantificare, non sapete nemmeno più quanto vi sta usurando la connettività totale, voi state peggio e prendete anche meno di noi. Quindi sappiate che qua purtroppo, cioè gli sfruttati, se questa è la scala, siete voi. E a un certo punto questo meccanismo ha iniziato a rompersi, che poi è quello che abbiamo fatto per tutta la lotta, perché noi abbiamo avuto un ottimo rapporto e continuiamo ad averlo con le campagne Mi Riconosci sul precariato nel mondo culturale, perché abbiamo iniziato a dire: guardate, voi addirittura siete più indietro di noi, perché vi hanno tolto addirittura il concetto di lavoro, cioè non avete un limite orario, non pretendete contratti, non pretendete fatica, e così vi deprofessionalizzate, perché chi non lotta per la dignità dei propri diritti fa peggio il proprio lavoro. Quindi voi, quello di cui vi accusiamo è che non siete attaccati professionalmente al vostro lavoro, perché io sono un tornitore e sono un tornitore rispetto al mio tornio, e il mio tornio per lavorare bene ha bisogno di un operaio con i diritti, perché le mie pause sono le pause del tornio, la mia manutenzione è la manutenzione del tornio, la mia tranquillità nel lavorare è trattare bene il tornio, e se tu non hai diritti tratti male il tuo lavoro. Per cui quello di cui noi a un certo punto abbiamo iniziato a accusare queste figure non è di essere troppo filaziendaliste e troppo attaccate al lavoro, è il contrario, di avere una concezione del lavoro che deprofessionalizzava il loro lavoro. C'è stata una discussione che abbiamo avuto con i giornalisti, prima abbiamo chiamato i giornalisti a discutere in quanto lavoratori, e quando hanno spiegato come lavoravano, c'avevo di fianco un collega non particolarmente sindacalizzato, bianco, diciamo, quanto stanno male questi? 500 euro a 45 anni per 10 pezzi al giorno, al mese ci prendono 500 euro, ma come fanno a lavorare così? Quando abbiamo fatto l'incontro con la campagna Mi Riconosci, una delle frasi che mi è rimasta più impressa, quando noi abbiamo detto: guardate, voi pensate, o nel vostro settore pensano di dover prendere meno stipendio o meno diritti, perché in fondo lavorate in mezzo alle bellezze culturali. Per noi anche il semiasse è una bellezza culturale, a noi piace il semiasse, cioè abbiamo la nostra cultura del semiasse, solo che lo vogliamo fare con i nostri diritti, lo vogliamo fare bene, cioè è un'opera d'arte il semiasse che facciamo, per farlo bene noi dobbiamo avere dei diritti, non dobbiamo usurarci fisicamente, dobbiamo stare tranquilli, quindi non sappiamo come facciate ad onorare le opere d'arte con cui avete a che fare tutti i giorni senza avere i vostri diritti. Questo mi porta a dire questo, che il concetto che noi abbiamo provato a spiegare a tutti e a tutti noi, di cui ci siamo resi conto, è che non puoi reggere nella lotta contro il ricatto salariale se non sei una persona a tutto tondo, cioè se non concepisci la tua professione come qualcosa di legato a diritti, a una società, a una collettività, a una pubblica utilità, se non ti vedi collegato a mille legami attorno, e contemporaneamente se non sei una persona a tutto tondo e contemporaneamente, scusate, se non batti il ricatto salariale non puoi essere una persona a tutto tondo, perché parlare di ambiente, parlare di diritti, parlare di prospettiva quando il tuo problema è che non hai un contratto, il contratto ti scade domattina, è ovvio che sei un cittadino di serie B, che non hai nessuna possibilità veramente di occuparti della socialità, perché sei troppo impegnato a pensare come arrivi a fine mese. Quindi quello che ci ha restituito la lotta è che abbiamo resistito perché a un certo punto abbiamo deciso di essere comunità solidale a tutto tondo, di prenderci cura l'uno dell'altro, di ragionare come persone a tutto tondo e quindi di resistere anche alla possibilità di diventare disoccupati e quindi alla prospettiva che teoricamente dovrebbe far più paura a tutti, cioè che dal giorno dopo tu non saprai come pagare le bollette, come fare la spesa, come dare un futuro ai tuoi figli. Ma abbiamo resistito a quello perché a un certo punto ci siamo fatti contagiare dal movimento esterno per essere persone a tutto tondo che si interrogavano sulle lotte per l'ambiente, per la sessualità, per questa società, essere parte di una società, di una comunità solidale. E l'altra cosa che vorremmo, il messaggio che ci stiamo sforzando di lanciare è che noi in questo momento non lo sappiamo da quel 9 luglio quanto tempo ci rimane, non l'abbiamo mai saputo, perché abbiamo sempre detto, credo sia scritto anche nel libro, la lotta poteva e può cadere ogni giorno e potrebbe andare avanti anni, non lo sappiamo, però vorremmo che questo senso del tempo, che è quello che a noi ci ha liberato, perché il 9 luglio a noi ci ha liberato, che da quel momento lì in poi era vivere o morire, e quindi dovevi fare qualcosa di epico e di storico, perché tanto non saresti più esistito come fabbrica e come comunità, questo senso del tempo vorremmo che fosse trasmessa a tutte e a tutti in questo momento. Noi non sappiamo quanto tempo ci rimane. Non possiamo rimandare lo sviluppo di questo processo a un tempo indefinito. Non lo sappiamo. Già il fatto di esserci dato una scadenza per l'autunno, perché noi abbiamo lanciato un tenente di liberi per l'autunno, è già una sconfitta, è già troppo in là. Non permettiamo alla routine di non cogliere lo spiraglio che si è aperto, pensando che tanto ci sono processi più a lungo termine. Sì, è vero, ci sono processi a lungo termine, ma il tempo di verificare la possibilità di coltivare insieme questo spiraglio è qui ed è ora, non in un altro momento. Non sappiamo quanto tempo ci è rimasto, né come individui, noi abbiamo avuto anche 10 mesi, abbiamo potuto misurare il tempo che passa, perché alcuni di noi c'erano il 9 luglio e non ci sono più, abbiamo avuto 2 lutti durante questi 10 mesi, ce li avevamo anche prima, però in questo tempo dilatato e di lotta ci sono sembrati delle cose atroci, persone che avevano lottato per qualcosa che non avrebbero poi visto, e non sappiamo quanto tempo ci rimane come comunità. In che senso? Nel senso che abbiamo già visto un evento come la pandemia, una mattina hai mandato i figli a scuola, la sera sono tornati e non avevano più la scuola. Hai questa escalation bellica che in realtà va avanti da anni. Quando i movimenti ambientalisti parlano della crisi climatica e, aggiungo io, della crisi idrica, cioè noi lo consideriamo sempre un tempo futuro, che chissà quando avverrà. Poi un giorno sul giornale c'è il vaiolo delle scimmie e non sai esattamente quale sarà l'escalation di quest'altra malattia. Quindi quel 9 luglio a noi ci ha tolto il tempo e allo stesso tempo ci ha mandato in un altro tipo di tempo, ci ha costretto a chiederci cosa potevamo fare di storico nel limite delle nostre possibilità. Ecco, noi vorremmo che il processo di insorgenza e di convergenza che almeno a Firenze si è dato attorno alla fabbrica ci aiutasse a ragionare in questi termini. C'è un profilo quello del collettivo, c'è un profilo quello dell'insorgiamo, abbiamo prodotto un documento che non è niente di che, sono due facciatine, ma vi invitiamo a leggerlo e chiediamo a tutte le realtà organizzate e ai singoli di non farsi travolgere dalla frantumazione, dal settarismo, dalla routine, ma di ragionare seriamente se possiamo replicare quello che è successo a Firenze il 26 marzo in tante altre piazze di questo paese.